Qualche volta tutto, tranne la vita che ora viveva, pareva una fantasia, anni sognati. Passavano giorni e settimane senza che neppure ad Enlan venisse il pensiero di Tamao dei bambini. Gli pareva di aver sempre lavorato con Enlan, come due mani azionate da un medesimo cervello. Non faceva anche parlare del piano di guerra che ora andavano attuando. Il loro esercito era una macchina flessibile, instancabile, diretta giorno e notte da un piccolo consiglio di cui facevano parte Enlan, altri due uomini, sulle cui vicende Aiwan non era mai stato del tutto al corrente, e lui stesso, Aiwan. Tutti funzionavano in perfetto accordo. Dovevano condurre la guerra con niente. Chiang Kai-shek aveva detto loro che non c'era niente. Quando avrebbe potuto dar loro del denaro lo avrebbe dato, ma gli stessi suoi eserciti erano equipaggiati poco più che a metà ed egli doveva sempre disporre di denaro in quantità sufficiente a comperare l'appoggio dei capi locali e delle loro truppe. Pochi erano coloro dei quali poteva fidarsi senza pagarli. Devo sempre poter pagare di più dei giapponesi, aveva detto una volta Daiwan con grande sdegno di questi. Ci sono davvero dei cinesi che anche adesso possono essere comperati? Aveva esclamato incredulo. Ma Chiang Kai-shek aveva detto: Ah, li conosco, non possono essere cambiati, devo prenderli come sono. Sì, pensò con dispetto Aiwan, forse McGurk aveva ragione. Enlan non era così grande come Chiang Kai-shek, ma egli si sentiva più affine ad Enlan e perciò era tornato da lui. Noi, diceva Enlan, non abbiamo bisogno di denaro. Poi correggendosi, o meglio, ne abbiamo bisogno, ma possiamo farne senza. Per anni ci siamo battuti senza soldi e continueremo a batterci come in passato. Aiwan non tardò ad appurare che la lotta veniva condotta col sistema della guerriglia. Nessuno degli uomini che conosceva ignorava il sistema di battersi con non importa quale arma a sua disposizione. Così 20 mitragliatrici parevano 100. Se mancavano fucili, ricorrevano alle lance di antica foggia, ai coltelli, ai giavellotti e magari alle pietre. Non trascuravano nemmeno le briciole della lotta. Anche spegnere la vita di un solo nemico era un atto che essi reputavano importante, pur essendo capaci di spegnerne poi 100 con la rapidità di un soffio. Operavano non ammassati in solidi reggimenti come il nemico, ma sparsi in gruppi minuscoli, nascosti tra gli alberi, appostati in caverne, mischiati ai contadini, zappa in mano e pistole e coltelli sotto le azzurre camicie di cotone. Per prima cosa, Enlan aveva decretato la marcia verso le linee nemiche. Dovevano avanzare non come un esercito, ma semplicemente come contadini, alla spicciolata. Un giorno un gruppo, un giorno un altro e un altro gruppo ancora, fino a raggiungere le terre spogliate dal nemico. Quelle terre, aveva detto cupamente una notte nella sua stanza in Lan, chino sulle carte, le conosco molto bene. Mise l'indice su un certo punto e domandò: Ricordi quello che solevo dirti sul mio villaggio natio? Sì, ricordo. Eccolo qua, disse in Lan, e guardò a lungo il punto segnato. C'è ancora il nome sulla carta, ma il villaggio non esiste più, non un'anima lo abita. I muri delle sue case sono crollati e le strade sono terra tormentata. Forse ho ancora vivo un fratello, non so bene. Un nucleo giapponese piombò sul villaggio ed esercitò su di esso la vendetta dopo Tung Chau. Tacque alquanto, imitato da Yuan. Che cosa c'era da dire? Pensavo che un giorno o l'altro sarei certamente tornato per fondarvi una scuola, proseguì poi lentamente. Nuova pausa. Non ho mai ripagato i miei compaesani, concluse, quando erano vivi, ma li ripagherò ugualmente, anche se ora sono morti. Peonia, seduta sul letto, gli rammendava una vecchia divisa. Depose il cucito, si avvicinò ad Enlan e gli tolse di mano la carta. E ora che tu vada a letto, disse, sai bene che devi dormire, perché ti alzi sempre all'alba. Enlan mutò improvvisamente umore. Sarò sempre un contadino, disse sorridente ad Aiwan, sveglio al canto del gallo. Vedendoli uniti da tanta passione, Aiwan sentiva la sua rinascergli nel petto come una nebbia. Dopo settimane di una vita vissuta come se mai avesse conosciuto altre abitudini, ora improvvisamente, quasi fosse stata lei a chiamarlo, ripensò anelando a Tamà. Era stato spesso tentato di parlare di lei a Elane e a Peonia, ma sempre si era trattenuto. Non poteva e non era certo della loro comprensione. Elane era più implacabile che mai. La vecchia calma con la quale aveva detto una volta ad Aiwan di rinnegare suo padre era ancora in lui. Semplicità spietata. Come, gli avrebbe domandato, come mai puoi amare una giapponese? E tuttavia Iwan sentiva di amare Tama, sentiva che l'avrebbe sempre amata, come se ella non appartenesse ad alcun paese, ma soltanto a lui. Una volta pensò che avrebbe potuto parlarne a Peonia, a lei soltanto. Proprio quel giorno gli era pervenuta una lettera da Tama, trasmessa, come tutte le altre, dal padre di Iwan sotto sigillo ufficiale. Era questa volta una lunga missiva piena di particolari su quello che i ragazzi dicevano e facevano. Giro cominciava ad andare a scuola. Lei gli aveva comperato una borsa di panno scuro, una piccola divisa e un berretto, uguali a quelli di tutti gli altri ragazzi. Ma quando è a casa, scriveva, gli insegno qualche cosa anch'io. Ogni giorno mettiamo dei fiori davanti al tuo ritratto e non manco mai di spiegare ai bambini quanto tu sia valoroso, quanto la Cina sia un paese a cui noi apparteniamo. Non è forse vero questo? Sì, dopo che gli era partito e l'aveva scritto noi apparteniamo alla Cina. La lettera gli era pervenuta in un giorno di particolare nostalgia della famiglia. La giornata era calma e Lana aveva ordinato riposo per tutti. Il nemico cambiava le sue posizioni e si trasferiva in un settore che Lan aveva deciso di attaccare. Aiwan trovò Peonia seduta nella parte a solatio della fattoria nella quale erano alloggiati. Improvvisamente lo prese il desiderio di parlarle di Tama, ma una riluttanza lo trattenne ancora. Cominciò: Non hai mai avuto figli, Peonia? Lei lo guardò. Nella cruda luce solare egli notò che la sua pelle delicata cominciava a segnarsi di tante minutissime rughe e che i capelli, un tempo lisci e fragranti di oli, ora apparivano scuriti e asciutti per effetto del vento. Ma Peonia era ancora giovane, era ancora carina. Certo, pensò Iwan, non doveva aver superato la trentina. Ho avuto due figli, gli rispose. Riabbassò gli occhi sul suo cucito. Quando mi nacque il secondo stetti malissimo. Non credo di poterne avere altri ora. Di nuovo cucì per un momento in silenzio e poi. Perché non dovrei dirtelo? Tu sei mio fratello. Il primogenito mi morì di dissenteria. La nostra vita non è la più indicata per un bambino. Sempre nomadi, ansiosi, troppi cambiamenti di cibo e di acqua per il bambino. E riuscii, cioè, nonostante a tenerlo in vita finché ebbe 5 anni, e poi improvvisamente mi morì. In una giornata. Lo seppellimmo sul fianco di una collina nel Jiangxi. È un posto così lontano di qui, nel meridionale, che non credo lo rivedrò mai più. Scosse il capo, ma non pianse. La secondogenita era una bambina. Nacque tanto tempo dopo il primo e che già credevo non dover più avere figli, ma come sai, Enlan non crede agli dèi, perciò io non avevo niente e nessuno a cui rivolgere la preghiera di avere un altro figlio. Invece, durante la lunga marcia concepii. Si interruppe, strappò coi denti un filo e proseguì. Speravo che la lunga marcia terminasse prima che la bambina nascesse, ma no. Continuammo interminabilmente a valicare alte montagne e poi a scendere giù per strade sassose attraverso i deserti. Non stavo male, ma non potevo fermarmi. Dovevo continuare a camminare o a cavalcare. A cavallo stavo peggio, le strade erano pessime, qualche volta non ce n'erano affatto. Ah, come fui contenta allora che tuo padre non mi avesse lasciato fasciare i piedi. La bambina mi nacque piccolissima e smunta, ma continuavamo a marciare e che cosa potevamo fare di lei? La consegnai a una buona donna, era una contadina, con un po' di denaro e con la promessa che sarei tornata. Chinò il capo sul cucito, fin quasi a toccarlo con la fronte. Questo fu 3 anni or sono. Qualche volta mi pare di non ricordarmi più del luogo e del viso della donna, e il suo nome, Wang, nient'altro. Ed Elan permise, esclamò Iwan. Peoni alzò gli occhi. Sai com'è? Disse con semplicità. Egli non seppe che cosa dire. Conosceva Elan, sapeva che anche Apeoni avrebbe chiesto tutto. Per la prima volta gli venne da pensare che forse a Peonia sarebbe piaciuto di avere una casa, una piccola casa in collina con giardino come quella di Tamà. «Ti dispiace di averlo seguito quel giorno?» domandò. Ella scosse il capo. «Senza di lui, che cosa sarebbe stato di me?» domandò lei a sua volta. Poi guardò il sole. «È tardi!» esclamò. Fissò con cura l'ago in una pezzuola di panno, la arrotolò e se la mise in una tasca della divisa. Gli aghi sono preziosi ora. Così avessi oggi tutti quelli che ho perso un tempo con tanta noncuranza. Parlando si alzò. Devo andare a preparargli la cena, disse allegramente. Egli rimase a guardarla mentre si allontanava. Era ancora graziosa, ma come magra. Vivendo quella vita non sarebbe certo giunta a una tarda età, ma quella era la vita di Enlan e anche lei la voleva. No, non le avrebbe detto nulla di Tamà. Certo, ella avrebbe raccontato tutto ad Enlan, per poco che lo reputasse necessario. I pensieri di Peonia non erano che per Enlan, non poteva confidarsi con lei e parlarle di Tamà ora. Ciascuno combatteva quella guerra come meglio poteva e sapeva. In altre parti della Cina c'erano eserciti in divisa, comandati e allenati da ufficiali stranieri, ma qui, dove Aiwan aveva deciso di vivere, non c'erano uomini inquadrati. La disciplina non era fatta per quella gente. I reparti marciarono fino ad essere prossimi al nemico, così prossimi che in meno di una giornata di facile cammino avrebbero raggiunto il territorio perduto. Non c'erano sedi di comando, o almeno non pareva che ce ne fossero, né capi per i gruppi sbandati. Enlan risiedeva in un villaggio, in apparenza era un contadino come tutti gli altri, circondato da piccoli merciai, da altri contadini, da boscaioli, da braccianti e da tutta una moltitudine di piccola gente che non aveva nulla a che fare con la guerra e che, come in ogni paese, non aveva che il pensiero del proprio vitto e dei propri figli. Finché improvvisamente, come emerse dal nulla, torme di feroci banditi saccheggiavano una città occupata dal nemico, ne passavano per le armi la guarnigione fino all'ultimo uomo per attirare il giorno seguente sulla regione nugoli di giapponesi assetati di vendetta. Ma la piccola gente dei campi non sapeva nulla, non aveva visto nulla. Con gli occhi innocenti degli eternamente bambini guardava il nemico e rideva. «Come possiamo essere noi gli uccisori dei vostri camerati?» gridavano in coro. «A noi non importa chi ci governa. Lasciateci curare i campi e fare i nostri affari. Noi odiamo i nostri padroni. Sono tutti cattivi e ci scuoiano vivi coi loro balzelli. Perché dovremmo batterci per loro? Se voi ci governerete meglio di loro, benvenuti siate!» I giapponesi si guardavano a vicenda, scuotevano la testa e se ne andavano, creduli a stendere lunghi rapporti ai superiori comandi. Per informarli che la gente delle campagne dava il benvenuto alle truppe e non chiedeva di meglio che un governo giapponese. Nelle lettere che gli scriveva Tamà, Aiwan leggeva che i giornali giapponesi dicevano precisamente questo. Tamà aggiungeva che era contenta poiché era un segno che la guerra sarebbe presto finita e che lei avrebbe potuto raggiungerlo coi bambini. Come dirle la verità? Non poteva informarla che gli innocenti contadini erano in realtà i soldati di Enlan, che alcuni erano anzi i suoi propri soldati ai quali aveva insegnato e dai quali molto aveva imparato. In quello strano esercito, infatti, non esisteva gerarchia. Se uno ne sapeva di più degli altri, insegnava quel che sapeva agli ignoranti. Era una vita alla quale suo padre non si sarebbe mai rassegnato. Ma da questo non derivava per suo padre né merito né disdoro, e del resto Aiwan non era più il ragazzo che una volta aveva dibattuto fra sé la questione di rinnegare o meno il proprio padre. Egli era un uomo ora e sapeva che non tutti gli uomini riescono a vivere la stessa vita. C'è infatti una specie di povertà che è dolce perché è piena di libertà, ma ci sono degli uomini che quella libertà odiano e fra questi era suo padre. E nemmeno, ora cominciava a capirlo, era persuaso che non ci fossero dei modi di vita diversi da quello di Enlan. Il suo amico avrebbe optato per quella vita fino all'ultimo, egli non avrebbe mai avuto una casa propria, non beni, non figli a cui lasciarli in eredità. Era di quelli che creano in qualche modo l'occasione di guerreggiare se già non trovano in corso una guerra. Sempre avrebbe trovato ingiustizie che avrebbe giurato di sanare. Ma Aiwan? No, scopriva ora di essere diverso lui. Una volta da ragazzo aveva visto nella libertà di Enlan il supremo ideale e in realtà non si sarebbe mai detto soddisfatto se per un certo tempo non avesse vissuto la vita di adesso. Ma passando i giorni si persuase che ci voleva altro per costituire una nazione. Quegli uomini compivano ora l'opera per la quale erano tagliati. Ma che cosa avrebbero fatto una volta finita la guerra? Sarebbero stati degli eterni ribelli, avrebbero avversato ogni regola e controllo, non meno di quanto oggi combattessero il nemico. Ne discusse a lungo con Elan. Che cosa diverranno quando la guerra sarà finita? Ripeteva Elan, diamine, quello che sono ora, buona gente, onesta e valorosa, gente da cui vorrei essere governato piuttosto che da non importa chi altri. Questo va bene per te, Elan, replicò Aiwan, ma tu sei uno dei loro. E non lo sei anche tu? Ma sì, certo che lo sono, osservò Aiwan, non senza una punta di impazienza. Elan non vedeva subito chiaro alle volte. Ma io e te non costituiamo mica la nazione. Oggi la nazione è un'enorme macchina per il funzionamento della quale, se si vuole che il popolo ne abbia vantaggio, si devono conoscere molte cose. Ma noi ce la caviamo mica male, non ti pare? Esclamò Elan. Siamo nutriti, siamo vestiti, c'è giustizia per tutti e siamo liberi. Questo è quanto chiede la gente. Ma non è tutto. Aiwan aveva quelle parole sulla punta della lingua, ma non le disse. Vide che Elan era quello che era, uno che non vedeva più in là delle proprie credenze. In gioventù era stato imbevuto di certe idee, di certi sogni, e da allora non era mai cambiato. Aveva dedicato tutta la vita a renderli reali quei sogni e si era creato un mondo, un tipo di nazione che credeva giusto. Tutta la sua vita, fino alla morte, sarebbe stata dedicata ad attuare e a perfezionare quel sogno. Ma il sogno di Aiwan ora era diverso. Più viveva con quegli uomini, più viveva con Elan e meglio vedeva che il suo sogno era un altro, che diversa era la sua idea della Cina. Sapeva ora di non voler più essere governato da quegli uomini, per onesti che fossero, e non bastava che fossero semplici. L'onestà e la semplicità non erano certo compagni essenziali, e se lo erano, allora l'onestà non era abbastanza diffusa e sentita, i suoi confini dovevano essere dilatati. Rifletté a lungo su questi punti. Chi, dopo quella guerra, avrebbe ricostruito la Cina? Come dovevano essere statuite le leggi? Come dovevano essere le leggi stesse? Vedeva ora che Lan non era in grado di governare cose che non capiva. Istruzione, cultura, ordine, civiltà erano pur tutti elementi dei quali si doveva tener conto nella vita, ma Elan li avrebbe sempre ignorati. Questi altri simili pensieri lo indussero a pensare che Tama, dopo tutto, lo aveva cambiato. Era lei che gli aveva insegnato ad amare l'ordine, il giusto contegno, la civiltà negli atti quotidiani. I 10 anni passati con lei erano per sempre nel suo essere. Sì. Per quanto fosse amaro il doverlo riconoscere, aveva nel suo essere 10 anni di vita giapponese. Era troppo onesto nei riguardi di se stesso per disconoscere che il popolo nel Giappone era più tutelato e sicuro che non il popolo cinese. E quella sicurezza derivava dal maggior ordine. Aiwan non osava dire ad Enlan che nel nemico c'era qualche cosa di buono. Enlan non avrebbe mai creduto che si potesse essere ligi alla patria trovando del buono nel nemico, ma Aiwan si conosceva e sapeva di non amare meno il suo paese se si accorgeva che il popolo era poverissimo e che la libertà che esso popolo amava aveva cessato di essere tale se per causa sua si cadeva in preda alla fame, alle inondazioni, al timore dei banditi, alle guerre fra uomini malvagi e senza legge. Lungamente meditò su quanto la libertà e la sicurezza si assomigliavano fino a identificarsi. Questi pensieri rivelavano quel che l'età matura aveva fatto di lui. Sapeva ora che non avrebbe mai potuto seguire Lan sino alla fine, come avrebbe fatto una volta. Sino alla fine di ogni giornata, sì, e magari sino alla fine di quella guerra, ma dalla guerra Doveva nascere un mondo nuovo. Come questo mondo sarebbe stato, non gli era dato sapere. Finì con rinunciare all'indagine sul lontano futuro e si limitò a chiedersi tra quanto tempo avrebbe potuto condurre in Cina la moglie e i figli. Nei giorni di quel lungo inverno, in attesa che tornasse la primavera e il Gran Turco e il Caoliang fossero alti abbastanza da permettere le imboscate anche durante le ore diurne, Aiwan, sognando, si domandava come, a guerra finita, avrebbe fatto varcare il mare a Tamai ai figli e come si avrebbero trovato la casa che avrebbe preparato per loro. Dove sarebbe sorta? Pensò al suo grande paese, ecco il settentrione con le sue fresche estati e le invernate gelide e asciutte era salubre soggiorno. Ma c'era anche la ricca e fertile bellezza del centro e c'erano i frutti e i fiori del sud. I fiori sarebbero piaciuti a Tamà. Non era facile, ecco, scegliere una località adatta in un paese come la Cina, una località dove i suoi figli avessero meglio potuto crescere e diventare uomini. Aiwan passò in rassegna tutte le città dove avrebbero potuto abitare: Hangzhou, Suzhou, Nanchino, Hankou. Ma presto il nemico cominciò a conquistare una dopo l'altra quelle città. Sul finire dell'autunno, Shanghai si arrese. Suo padre gli scrisse di inutili e disperati combattimenti, di feriti in numero così strabocchevole da non poter più essere curati. Poi cadde Suzhou. E alla perdita di questa città, sul principio dell'inverno, seguì quella di Hangzhou, della celeste Hangzhou, dove da bambino era andato in vacanza in primavera e nell'autunno coi genitori. In tutto il tempo della marcia del nemico verso l'interno, non aveva creduto che Nanchino potesse essere presa perché c'era Chiang Kai-shek. Qualche volta sorrideva alla propria superstizione sul conto di quell'uomo. Aiwan era come suo padre, non credeva agli dèi, ma a Chiang Kai-shek sì, credeva come a un dio. Ma poi giunse la nuova che anche Nanchino era caduta. E per un giorno gli uomini non poterono far altro che buttarsi a terra inattivi e cupi, domandandosi se non fosse giunta l'ora di ritirarsi da dove erano partiti. E Lan riuscì a rincuorarli soltanto con una gran festa durante la quale tenne loro un discorso. «Che cosa ci importa delle città?» gridò loro, quando furono pieni di carne e di vino. «Che cosa conta Nanchino per noi? Non abbiamo mai ricevuto nulla da Nanchino, non ci accorgeremo nemmeno che essa è perduta. E se ora ci ritiriamo e se il nemico vince, non dovremo forse affrontarlo più tardi e più soli? Mentre se resistiamo e se vinciamo come vinceremo, non sarà allora libera la patria?» Con tutta la vecchia magia degli occhi brillanti, della grossa voce, del piano eloquio, sempre comprensibile da tutti, Enlan riordinò i ranghi e indusse i suoi figli a combattere ancora. Aiwan non poteva negare l'ascendente di Enlan, ma non dimenticava che finita la guerra gli uomini non tanto avevano bisogno di essere guidati in battaglia, quanto nella quotidiana opera ricostruttiva di una nuova e grande nazione. Allora l'ascendente non sarebbe servito a nulla. No, allora lo stesso Enlan si sarebbe stancato della pazienza e del lavoro e se ne sarebbe andato dove, in armonia col suo vero essere, avrebbe potuto dar mano a una nuova rivoluzione. Ma ora Enlan serviva e grazie al suo ascendente, tutte le volte che una città cadeva nelle mani del nemico, i suoi uomini tornavano con maggior fermezza alla loro clandestina, sterile guerriglia. Non affrontavano il nemico in battaglie campali. Non c'erano né grandi vittorie né grandi sconfitte, ma lo sforzo imposto al nemico era come il sanguinare di una segreta ferita. Nessuno diceva nulla, nessuno sapeva. I giornali non stampavano nulla, ma capitava che 100 uomini fossero spazzati via di nottetempo da un posto nemico in una città di campagna, oppure che in un'altra notte cadesse un ponte e il fiume inghiottisse mezzo reggimento, oppure ancora che fosse fatto saltare un treno. Mine erano nascoste nella polvere di una strada di campagna e scoppiavano sotto le ruote di un autocarro nemico. Strani fuochi scoppiavano negli accampamenti nemici, trasporti di fucili erano catturati. Altre volte si conquistava un cannone previo massacro del suo reparto e si facevano saltare dighe con conseguente allagamento del territorio nemico. Quella Era la guerra che gli uomini di Enlan sapevano fare. La guerra, Aiwan era certo, che del resto era la più efficace. Leggendo le lettere di suo padre, con particolari sulle perdite cinesi nel sud, si sentì male. I soldati cinesi, scriveva suo padre, facevano tutto quel che si diceva loro di fare, erano così coraggiosi. Quando ricevevano l'ordine di marciare in ranghi serrati contro il nemico, marciavano senz'altro, per cadere a mucchi, come il grano sotto la falce. Più pensava a quel che succedeva, e più gli pareva intollerabile. Si ripeteva che Chiang Kai-shek avrebbe dovuto abbandonare il sistema straniero di combattimento per riadottare i vecchi sistemi cinesi nell'impiego dei quali eccelleva Enlan. Un giorno suo padre, come presago della fine, scrisse: «I nostri non hanno che il coraggio. Vanno a battersi praticamente inermi, con tutt'al più dei fuciletti da nulla in confronto delle macchine di guerra giapponesi. Tutti i nostri giovani migliori sono già periti e poi non possiamo allearne di nuovi con sufficiente rapidità per colmare i vuoti di tanto massacro.» Aiwan andò da Enlan e gli mostrò la lettera. «Vuoi andare da Chang?» gli domandò poi, «a spiegargli il tuo sistema di guerra, cercando di indurlo ad adottarlo?» Ne ragionarono a lungo. Enlan a tutta prima fu riluttante, sospettava che ci si potesse ancora essere qualcuno che volesse fargli la festa. «Perché non vai tu per me?» gli domandò. «Sei sempre sicuro tu come figlio di tuo padre?» «Chiang Kai-shek non mi ascolterebbe», rispose tranquillo Aiwan senza raccogliere l'insinuazione contro suo padre. «Invece sa qual è il tuo valore di combattente.» Enlan rise e cedette. Aiwan telegrafò a suo padre, il quale dispose affinché McGurk venisse a prendere Enlan. Ci fu un breve momento di allegria, allorquando Enlan, che in vita sua non aveva mai avuto paura di nulla, tremò nel salire sull'apparecchio. La risata di Aiwan, tuttavia, gli servì di sprone e partì. Aiwan rimase a guardare l'apparecchio che saliva e spariva tra le nubi. Quei due che si sarebbero incontrati, pensò, vedendo mentalmente di fronte Chiang Kai-shek e Enlan, che spettacolo avrebbero mai offerto. E non si ingannava. Alcuni giorni dopo, Enlan era di ritorno. Aveva affrettato la partenza dicendo di non poter sopportare la città nemmeno un'ora di più, e Chiang Kai-shek annunciava che d'ora innanzi gli eserciti cinesi non si sarebbero più battuti secondo gli ostici sistemi occidentali, bensì secondo l'antica tradizione. Quando il nemico fosse avanzato, essi si sarebbero ritirati, e quando il nemico si fosse ritirato, essi avrebbero avanzato. L'attacco al nemico avrebbe sempre dovuto avere il carattere della sorpresa. Mai più i cinesi avrebbero affrontato il nemico in battaglie campali così come facevano gli eserciti dell'Occidente. Parve che subito quell'annuncio rincuorasse ogni cinese. Se quella guerra doveva essere combattuta coi sistemi che conoscevano, allora avrebbero vinto. Aiwan, dal canto suo, si confortò al pensiero che almeno ora il numero di coloro che morivano inutilmente sarebbe stato minore. Cupamente pensò che in avvenire avrebbero dovuto organizzare eserciti da stare a paro con non importa quale altro esercito del mondo, eserciti terrestri, armate aeree con migliaia di aeroplani, flotte potenti. Per ora, in attesa, dovevano cavarsela come potevano. Col sistema antico di battaglia, lui ed Enlan non perdevano quasi uomini. Se qualcuno cadeva, la colpa era sua. Certo, doveva aver commesso qualche errore, ma contavano con cura i nemici abbattuti nella guerra di tutti i giorni.